Capitolo 25. Dopo una settimana trascorsa a far dichiarazioni d'amore e progetti di felicità, il signor Collins venne ritolto alla sua gentile Charlotte dal sopraggiungere del sabato. Da parte sua, tuttavia, il dolore della separazione era forse lenito dai preparativi per l'accoglienza alla sposa, già che egli aveva motivo di sperare che poco dopo il suo prossimo ritorno nello Hertfordshire sarebbe fissato il giorno che doveva far di lui il più felice degli uomini. Dai suoi parenti di Longbourn si accomiatò con la solennità di prima, augurò un'altra volta alle sue graziose cugine salute e prosperità e promise al padre loro un'altra lettera di ringraziamento. Il lunedì successivo la signora Bennet fu lieta di accogliere suo fratello e la moglie di lui, che venivano come di consueto per passare il Natale a Longbourn. Il signor Gardiner era un uomo intelligente, distinto, di gran lunga superiore a sua sorella, sia per natura che per educazione. Le signore di Netherfield avrebbero stentato a credere che un uomo che viveva nel commercio, avendo per unico orizzonte i suoi magazzini, potesse essere così compito e simpatico. La signora Gardiner, più giovane di parecchi anni della signora Bennet e della signora Phillips, era una donna graziosa, intelligente, elegante, prediletta da tutte le sue nipoti di Longbourn. Fra lei e le due maggiori, specialmente, c'era un particolare legame d'affetto. Le due fanciulle erano state spesso sue ospiti in città. La prima cosa di cui la signora Gardiner si occupò al suo arrivo fu la distribuzione dei regali e la descrizione delle ultime novità della moda. Ciò fatto, ebbe da svolgere un'attività meno intensa. Toccò lei ascoltare. La signora Bennet aveva molte cose penose da narrare, molto di cui lagnarsi. Da quando aveva veduto la cognata l'ultima volta, tutti avevano passato dei guai. Due delle sue figliole erano state lì lì per sposarsi e poi tutto era finito in niente. Non ne faccio una colpa, Jane, ella continuò, perché Jane avrebbe accettato il signor Bingley se avesse potuto. Ma Lizzy, oh cognata mia, è ben dura pensare che a quest'ora avrebbe potuto essere moglie del signor Collins se non fosse stato per la sua cattiveria. Le ha fatto la proposta proprio qui, in questa stanza, e lei l'ha rifiutato. La conseguenza di questo sarà che Lady Lucas avrà una figlia maritata prima di me. E che la proprietà di Longbourn è più vincolata che mai. I Lucas sono gente astutissima, te lo dico io, cognata mia. Gli basta arraffare. Mi spiace dover parlare così di loro, ma è la verità. E l'essere contrariata a questo modo in casa mia, con dei vicini che pensano a sé prima che a tutti gli altri, mi innervosisce e mi abbatte molto. Però il più gran conforto è che tu sia venuto proprio in questo momento e sono contentissima di sapere ciò che mi dici. Delle maniche lunghe. La signora Gardiner, che aveva già avuto il succo di quelle notizie nello scambio di corrispondenza intercorso fra lei e Jane ed Elizabeth, diede una risposta insignificante e cambiò argomento mossa a compassione delle nipoti. Quando più tardi si trovò sola con Elizabeth, si diffuse maggiormente sull'argomento. Pare che si sarebbe trattato di un partito molto desiderabile per Jane, disse. Mi dispiace che sia sfumato. Ma cose del genere capitano con tanta frequenza. È così facile che un giovane come tu descrivi il signor Bingley si innamori di una bella ragazza per qualche settimana e quando il caso li separa la dimentichi. Siffatto genere di incostanza è molto frequente. Ottima consolazione, in certo modo, fece Elizabeth, ma per noi non serve. Non siamo vittime di un caso. Non capita spesso che degli amici intriganti persuadano un giovane con una posizione indipendente a non pensare più a una ragazza della quale è stato violentemente innamorato soltanto fino a pochi giorni prima. La codesta espressione violentemente innamorato è così trita, così vaga e indefinita, che mi rende assai poco l'idea. Viene usata con la massima facilità sia per un sentimento derivato da una conoscenza di mezz'ora, sia per un attaccamento vero e profondo. Che grado di violenza aveva? Per favore, l'amore del signor Bingley. Non ho mai visto un'inclinazione più promettente. Non badava più a nessuno. Completamente preso di lei. Ad ogni loro incontro la cosa era più precisa, più evidente. Al ballo offerto da lui, recò offesa a due o tre signorine per non averle invitate a danzare. E io stessa gli rivolsi due volte la parola senza aver risposta. Potrebbero esserci sintomi più acuti? O che le cattive creanze verso il prossimo in generale non sono la quintessenza dell'amore. E come? Almeno in quel genere d'amore che io lo ritengo capace di aver provato. Povera Jane, Mi spiace per lei perché col suo carattere forse non si rimetterà così presto. Sarebbe meglio che fosse capitato a te, Lizzy. Tu con una bella risata avresti dimenticato tutto più alla svelta. Ma credi che la si potrebbe persuadere a venire a Londra con noi? Un cambiamento d'ambiente potrebbe giovarle e forse il lasciare la casa per un po' di tempo le farebbe utilissimo. Elizabeth si rallegrò assai di quella proposta, convinta che sua sorella avrebbe accettato subito. Spero, soggiunse la signora Gardiner, che Jane non si lascerà influenzare da nessuna considerazione relativa col giovanotto. Abitiamo in una parte così lontana della città, tutte le nostre relazioni sono così diverse e, come sai benissimo, usciamo così poco, che è molto improbabile un loro incontro, a meno che egli non venga proprio a farle visita. E questo è del tutto impossibile, poiché si trova ora sotto la tutela del suo amico e il signor Darcy non sopporterebbe mai che gli andasse a trovare Jane in un simile quartiere della città. Mia cara zia, come ha potuto pensare a una cosa del genere? Il signor Darcy potrà forse aver sentito nominare un luogo come Gracechurch Street, ma ammetterebbe a stento che un mese di abluzioni gli basterebbe a mondarlo da tante impurità, se una volta dovesse metterci piede. E il signor Bingley non muove un dito senza di lui. Stia sicura. Tanto meglio. Spero che non si incontreranno affatto. Ma Jane non è in corrispondenza con la sorella di lui. Lei almeno non potrà evitare di venirle a far visita. Quella lascerà cadere la relazione del tutto. Però, malgrado la certezza che Elizabeth ostentava di nutrire circa questo proposito, nonché l'altro, non meno interessante, che a Bingley fosse cioè impedito di vedere Jane, provava per tutto ciò un'ansietà tale da convincerla ad un più attento esame che ella non considerava la faccenda del tutto senza speranza. Era possibile, e talvolta le sembrava probabile, che il sentimento di lui si rianimasse e che l'influenza esercitata dai suoi amici fosse combattuta e vinta dall'influenza più naturale del fascino di Jane. La signorina Bennet accettò volentieri l'invito di sua zia, e in quel momento i Bingley non occupavano altrimenti i suoi pensieri che per la speranza che Caroline non abitasse nella stessa casa del fratello, cioè che le avrebbe consentito di passare di tanto in tanto una mattinata con lei, senza pericolo di vedere lui. I Gardiner si trattennero a Longbourn una settimana e un po' coi Phillips, un po' coi Lucas, un po' con gli ufficiali. Non ci fu un solo giorno non impegnato. La signora Bennet aveva provveduto con tanta cura agli svaghi di suo fratello e di sua cognata che essi non parteciparono neppure una volta a un pranzo di famiglia. Quando l'invito era in casa, qualche ufficiale era sempre del numero e fra questi non poteva mancare il signor Wickham. In tali occasioni, la signora Gardiner, insospettita dei calorosi elogi sul suo conto tessuti da Elizabeth, li osservò entrambi da vicino, senza supporre, per quanto aveva constatato, che fossero seriamente innamorati uno dell'altra, pure la loro preferenza reciproca era così evidente da metterla un po' a disagio, e risolvette di parlare dell'argomento ad Elizabeth prima di lasciare lo Herefordshire e farle presente l'imprudenza di incoraggiare una simile simpatia. Secondo la signora Gardiner, Wickham aveva una speciale facoltà di rendersi simpatico, che non aveva nulla a che fare con le altre sue attrattive. Circa 10 o 12 anni addietro, prima di sposarsi, ella aveva passato un considerevole lasso di tempo in quella stessa contrada del Derbyshire, dalla quale egli proveniva. Avevano perciò molte conoscenze in comune e benché Wickham fosse rimasto poco in quei luoghi dopo la morte del padre di Darcy, avvenuta 5 anni addietro, egli era tuttavia in grado di darle notizie più fresche sui suoi amici di un tempo, di quelle che non fosse riuscita lei di procurarsi. La signora Gardiner era stata a Pemberley ed aveva conosciuto molto bene di fama il defunto signor Darcy, il che offriva per conseguenza un argomento inesauribile di conversazione. Confrontando il suo ricordo di Pemberley con la descrizione particolareggiata che poteva offrirne Wickham e tributando lodi al carattere del defunto, ella faceva piacere al suo interlocutore e a se stessa. Informata del trattamento che l'attuale signor Darcy gli aveva riservato, ella si sforzò di rievocare alla mente le voci che correvano allora sul carattere di quel gentiluomo, ragazzo a quel tempo, che potessero coincidere con quanto le veniva detto ora. E infine fu sicura di rammentarsi di aver già sentito parlare prima del signor Fitzwilliam Darcy, come di un ragazzo superbo e cattivo. Capitolo 26. La signora Gardiner non mancò di ammonire Elizabeth, debitamente e con ogni delicatezza, alla prima occasione favorevole che le si presentò di parlare da sola a sola. e dopo averle detto sinceramente quel che pensava, continuò così. Tu sei una ragazza troppo intelligente, Lizzy, per innamorarti soltanto perché ti si mette in guardia contro un passo del genere. Per questo non ho timore di parlarti con franchezza. E davvero vorrei che tu stessi ben attenta. Non compromettere te stessa, o non tentare di compromettere lui in un sentimento che la mancanza di mezzi renderebbe alquanto imprudente. Non ho nulla da dire in suo sfavore. È un giovane molto interessante. Se avesse i mezzi che dovrebbe avere, direi che non potresti scegliere meglio. Ma stando le cose come stanno, non devi lasciarti trasportare dalla fantasia. Hai giudizio e noi ci si aspetta tutti da te che tu ne faccia uso. Tuo padre si rimetterà sempre alla tua decisione, alla tua condotta, non c'è dubbio. Non devi dare una delusione al tuo babbo. Sia cara, questo si chiama parlare sul serio. Sì, e spero in tal modo di impegnarti a prendermi altrettanto sul serio. Ebbene, non c'è bisogno che lei si allarmi allora. Saprò badare a me stessa e anche al signor Wickham. Non si invaghirà di me per quanto possa dipendere da me impedirglielo. Elizabeth, tu non stai parlando sul serio. Mi scusi, cercherò di spiegarmi meglio. Per il momento io non sono innamorato del signor Wickham, no, è escluso. Ma sta di fatto che egli è senza confronto l'uomo più simpatico che io abbia mai visto. E se egli mi si affezionasse veramente, ma non sono convinta. Che sarà meglio di no. Capisco quanto ciò sia imprudente. No, quell'odioso signor Darcy. L'opinione che mio padre ha di me mi onora oltremodo e sarei dolentissima di smentirla. Però il papà ha un certo debole per il signor Wickham. Insomma, cara zia, mi rattristerebbe assai l'essere causa di dispiaceri per chiunque di voi, ma poiché constatiamo ogni giorno che dove sboccia un sentimento, i giovani si lasciano raramente trattenere a fidanzarsi da una temporanea mancanza di mezzi. Come posso promettere di essere più saggia di tante mie compagne se indotte in tentazione? O come faccio anzi a convincermi che sarebbe cosa saggia resistere? Tutto quello che le posso promettere dunque è di non avere fretta. Non avrò fretta nel credermi io l'oggetto di tutti i suoi pensieri. Quando mi troverò in sua compagnia, baderò a non desiderarlo, insomma, farò del mio meglio. Forse faresti meglio a non incoraggiarlo a venire qui con tanta frequenza, o quantomeno non dovresti rammentare a tua madre di invitarlo, come feci l'altro giorno, rispose Elizabeth con un consapevole sorriso. Verissimo, ma sarà bene che mi trattenga dal farlo. Ma non si immagini che gli venga qui tanto di frequente. È in onor vostro che questa settimana è stato invitato tante volte. Lei conosce le idee di mia madre circa la necessità di avere sempre degli invitati per i suoi amici. Però le do davvero la mia parola d'onore che mi sforzerò di fare quel che mi sembrerà più giudizioso. E ora spero che sia soddisfatta. La zia l'assicurò di sì, e dopo che Elizabeth l'ebbe ringraziata per i suoi buoni suggerimenti, si separarono. Raro esempio di un consiglio dato su un simile argomento senza destare irritazione. Il signor Collins fece ritorno nell'Herefordshire subito dopo la partenza dei Gardiner e di Jane, ma poiché questa volta fu ospite dei Lucas, il suo arrivo non diede troppo fastidio alla signora Bennet. Ormai quel matrimonio si andava rapidamente avvicinando ed essa si era finalmente rassegnata a tal punto da giudicarlo inevitabile e da ripetere persino in tono maligno che augurava loro tanta felicità. Il giorno delle nozze era fissato per il giovedì e il mercoledì la signorina Lucas fece la sua visita d'addio. Quando si alzò per prendere commiato, Elizabeth, che si vergognava degli auguri sgarbati e sforzati della madre ed era sinceramente commossa ella stessa, l'accompagnò fuori della stanza. Mentre scendevano insieme le scale, Charlotte disse: «Mi scriverai spesso, Lizzy. Ci conto. E come? E ho un altro favore da chiederti. Mi verrai a trovare. Spero che ci rivedremo spesso qui, nello Herefordshire. È probabile che per un po' di tempo io non possa lasciare il Kent. Promettimi dunque di venire a Hainsford.» Elizabeth non poté rifiutare, benché si rallegrasse poco all'idea di quella visita. «Mio padre e Mary devono venire da me in marzo», soggiunse Charlotte. «Spero che acconsentirai ad essere della partita. Sarai per me la benvenuta quanto ognuno di loro, Lizzy.» Le nozze Ebbero luogo, gli sposi partirono per il Kent appena lasciata la chiesa e tutti ebbero molto da dire o da ascoltare sull'avvenimento, come di consueto. Elisabeth ebbe presto notizie delle amiche e lo scambio di corrispondenza fra loro fu regolare e frequente come era sempre stato. Che fosse poi altrettanto spontaneo non era ammissibile. Elisabeth non poteva più rivolgersi a lei senza avere l'impressione che la loro consolante intimità fosse finita per sempre e quantunque decisa a non rallentare il ritmo della corrispondenza. Ciò avveniva piuttosto nel grato ricordo di quel che era stato, non di quel che era adesso. Le prime lettere di Charlotte furono accolte con notevole entusiasmo. Non si poteva a meno di essere curiosi di sapere quel che avrebbe detto della sua nuova casa, come le sarebbe piaciuta Lady Catherine e quanto avrebbe avuto il coraggio di dichiararsi felice. Però, lette le lettere, Elizabeth sentiva che Charlotte si esprimeva su ogni punto esattamente come avrebbe potuto prevedere. Scriveva in tono gaio, sembrava circondata di tutte le comodità e non accennava nulla che non potesse elogiare. La casa, il mobilio, il vicinato, le strade, tutto era di suo gusto e i modi di Lady Catherine erano estremamente affabili e cortesi. Era il quadro di Hansford e di Rosings che aveva fatto il signor Collins, era ragionevolmente mitigato. Ed Elizabeth si rese conto di dover aspettare il momento della sua propria visita per scoprire il resto. Jane aveva già scritto qualche riga alla sorella per annunciarle il suo felice arrivo a Londra e quando scrisse di nuovo Elizabeth sperò che sarebbe stata in grado di dire qualcosa riguardo ai Bingley. La sua impazienza per questa seconda lettera fu compensata come lo è in genere l'impazienza. Jane si trovava in città da una settimana e ancora non aveva veduto né aveva avuto notizie di Caroline. Scusava però il fatto, quella supposizione, che la sua ultima lettera da Longbourn all'amica fosse andata incidentalmente smarrita. Domani, continuava, la zia si reca in quel quartiere e io approfitterò dell'occasione per passare in Grosvenor Street. E scriveva di nuovo dopo aver fatto la visita e aver visto la signorina Bingley. Caroline non mi è sembrata di buon umore, erano le sue parole. Ma si è mostrata molto lieta di vedermi e mi ha rimproverato per non averla informata del mio arrivo a Londra. Avevo ragione dunque, la mia ultima lettera non l'aveva mai raggiunta. Le ho chiesto del fratello, naturalmente, stava bene, ma così impegnato col signor Darcy che loro lo vedevano appena. Sono venuta a sapere che aspettavo una pranzo la signorina Darcy, mi piacerebbe vederla. La mia visita non è stata lunga, siccome Caroline e la signora Hurst dovevano uscire. Credo che le vedrò presto qui da noi. Letta questa lettera, Elizabeth scosse il capo. Era ormai persuasa che soltanto il caso avrebbe potuto rivelare al signor Bingley la presenza di sua sorella in città. Passarono 4 settimane e Jane non lo vide. Si sforzava di convincersi che non le rincresceva, ma non poteva più a lungo rimanere cieca alle mancanze di riguardo della signorina Bingley. Dopo averla attesa a casa ogni mattina per 15 giorni e aver inventato ogni sera una nuova scusa per lei, finalmente la visitatrice comparve. Ma la brevità della sua visita e ancor più il suo modo di fare così mutato non permisero a Jane di farsi altre illusioni. La lettera che scrisse la sorella in questa circostanza rivelerà quali fossero i suoi sentimenti. Sono sicura che la mia Lizzie sarà incapace di trionfare a mie spese del suo maggior acume, quando le confesserò di essermi completamente illusa sull'affetto della signorina Bingley per me. Tuttavia, cara sorellina, benché gli eventi ti abbiano dato ragione, non giudicarmi ostinata se persisto nell'asserire che, dato il suo contegno, la mia fiducia era naturale quanto il tuo sospetto. Non comprendo assolutamente la ragione di volermi essere così amica. Ma se le medesime circostanze dovessero ripetersi, sono sicura che ci cascherei di nuovo. Caroline mi ha restituito la visita soltanto ieri. E non un biglietto, non un rigo ho ricevuto nel frattempo. Quando finalmente si fece vedere, era chiaro che non era appunto soddisfatta. Fece delle scuse vaghe, formali, per non essere venuta prima. Non disse una parola quanto al desiderio di rivedermi e fu sotto ogni aspetto così diversa di tono. Quando se ne andò, io ero fermamente decisa a non continuare la relazione. La compatisco, benché non possa fare a meno di biasimarla. Ha avuto torto marcio a mostrarmi la predilezione che mi ha dimostrato. Posso dire con tutta tranquillità che ogni passo per una maggiore intimità è partito da lei. Ma la compiango perché deve sentire anche lei che agito male e perché sono certissima che la causa di tutto ciò è la sua preoccupazione per il fratello. Non c'è bisogno che mi spieghi di più. E benché tu ed io sappiamo che codesta preoccupazione è del tutto infondata, tuttavia, se sa la prova, si può facilmente giustificare il suo contegno nei miei confronti. Dato il bene che gli vuole, qualunque preoccupazione la provi per lui è naturale e generosa. Non posso fare a meno di meravigliarmi, però, che simili paure le vengano proprio adesso, perché se soltanto gli avesse tenuto un pochino a me, ci saremmo dovuti vedere già da molto, molto tempo. Egli sa della mia presenza a Londra, ne sono certa, per qualche accenno che Caroline stessa ha fatto. Eppure sembrerebbe, dal suo modo di parlare, che voglia persuadere se stessa che egli ha realmente un'inclinazione per la signorina Darcy. Non ci capisco nulla. Se non avessi timore di dar dei giudizi avventati, sarei quasi tentata di dire che in tutto ciò vi è una forte parvenza di duplicità. Ma voglio sforzarmi invece di bandire ogni aspetto penoso e pensare soltanto a ciò che può rendermi felice, e cioè il tuo affetto e la costante bontà dei miei carezzi. Scrivimi presto. La signorina Bingley ha fatto qualche allusione che non sarebbero più tornati a Netherfield e avrebbero lasciato la casa, ma non come cosa certa. Faremmo meglio a non parlarne. Sono lietissima che tu abbia così buone notizie dei nostri amici di Hansford. Vai a trovarli con Sir William e Mary, te ne prego. Sono sicura che ci starai molto bene. Tua, eccetera, eccetera. Questa lettera fece un po' dispiacere a Elizabeth, ma si rincuorò pensando che Jane non si sarebbe più lasciata ingannare, almeno dalla sorella. Quanto al fratello, bisognava ormai rinunciare a ogni speranza. Non voleva nemmeno augurarsi o rinnovarsi delle sue attenzioni. Il carattere di lui precipitava nella sua stima ad ogni nuovo esame e come castigo per lui, non meno che come possibile vantaggio per Jane, ella sperava sul serio che Bingley potesse sposare presto la signorina Darcy, la quale, a detta di Wickham, gli avrebbe fatto abbondantemente rimpiangere quanto aveva disprezzato. Pressappoco in quel tempo, la signora Gardiner rammentò a Elisabetta la sua promessa nei riguardi di quel signore e ne chiese notizie. Elisabetta poteva fornirne di atte a soddisfare la zia più che se stessa. La sua apparente simpatia si era calmata, le sue premure erano cessate del tutto e era divenuto l'ammiratore di qualcun'altra. Elisabetta era abbastanza vigile per accorgersene, ma seppe vedere e scriverne senza vera sofferenza. Il suo cuore non era stato toccato che in superficie e la sua vanità si sentì appagata al pensiero che l'eletta del suo cuore sarebbe stata soltanto lei se i mezzi l'avessero consentito. La repentina eredità di 10.000 sterline era l'attrattiva più notevole della signorina che egli si era messo a corteggiare. Ma Elizabeth, meno acuta forse in questo caso che in quello di Charlotte, non lo criticò per il suo desiderio di indipendenza. Anzi, non c'era niente di più naturale. E mentre poteva supporre che lasciarla fosse costato a lui non poco sacrificio, era pronta ad ammettere che la decisione era saggia e desiderabile per entrambi e poté sinceramente augurargli ogni bene. Informò di tutto alla signora Gardiner e dopo averglielo riferito nei particolari continuò così. Adesso sono convinta, cara zia, che non sono mai stata molto innamorata. Giacché se davvero avessi provato quella pura ed elevata passione, mi troverei ora a detestare il suo stesso nome e ad augurargli tutto il male possibile. Invece i miei sentimenti sono non soltanto cordiali nei confronti di lui, ma persino imparziali nei confronti della signorina King. Non riesco a scoprire di odiarla anche solo un pochino e non vedo in lei altro che un'ottima figliola. In tutto questo l'amore non c'entra. L'essere stata in guardia mi ha servito e benché sarei certo oggetto di maggiore interesse per tutte le mie conoscenze se fossi pazzamente innamorata di lui, non posso dir di rimpiangere che io gli sia apparsa insignificante. Forse l'importanza si paga talvolta a troppo caro prezzo. Catherine e Lydia si prendono molto più a cuore di me la sua defezione. Sono inesperte delle cose del mondo. E non si rassegnano ancora all'umiliante constatazione che bei giovanotti hanno bisogno di avere di che vivere, non meno dei brutti.